ci sono più le mezze stagioni, di Roberta Giordano. E tra i tanti elementi indicativi, stavo pensando, del fatto che non ci siano più le mezze stagioni, magari ogni tanto ne tiriamo fuori anche qualcuno, mi viene in mente anche, ieri andavo a correre al parco, i grilli. Voi i grilli li sentivate prima cantare la sera, invece adesso i grilli anche di giorno, o nelle pinete toscane o laziali, insomma in giro per l'Italia, si sentivano le cicale di giorno e i grilli invece la sera. Adesso i grilli si sentono anche durante la giornata. Insomma, non so se per voi questo è un segnale, se l'avete sentito, ma ovviamente non è questo il motivo per cui siamo insieme tutti i sabati dalle 14 alle 15, ma perché mi raccontiate voi qual è secondo voi la vostra notizia della settimana. È un bilancio qui in libertà dei vari fatti che hanno caratterizzato questa settimana che si sta chiudendo, ogni volta la settimana che sta finendo. Ci sarà un ospite che ho scelto per questa puntata come opinionista, gli sottoporrò varie notizie, però voi ascoltatrici e ascoltatori sempre nella massima libertà potete esprimere le vostre opinioni sulle notizie, ricordarne magari qualcuna che può essere passata in secondo piano, oppure ritornare su quelle così da prima pagina. Il numero verde sempre a vostra disposizione e in massima libertà è 800 24 00 24. Lo ripeto, il numero verde è 800 24 00 24. Andremo avanti come sempre, scusatemi, fino alle 15. Voce permettendo, e vi voglio già ricordare che domani, se avete voglia sempre di stare in mia compagnia, sarò invece in onda dalle 19 alle 19.30 e ci sarà con me Mogol, l'autore che ha scritto le più belle canzoni italiane. Comunque oggi concentriamoci invece sulle notizie di questi giorni. Intanto saluto Pier Giorgio Di Freddi. Pier Giorgio, buongiorno, ciao. Buongiorno, ciao a te. Pier Giorgio è notissimo matematico e ha studiato matematica in Italia, negli Stati Uniti, nell'Unione Sovietica, ha insegnato logica all'Università di Torino, alla Cornell University, collabora per diversi giornali, tra cui Repubblica, L'Espresso, ha vinto diversi premi, tra cui il premio Galileo dell'Unione Matematica Italiana, ha scritto molti saggi e l'ultimo si intitola Il Club dei Matematici Solitari del professor Di Freddi, pubblicato da Mondadori. Perché tu, Pier Giorgio, sei un solitario essendo un matematico? Non so se sia un solitario, in realtà il titolo è un gioco di parole, o meglio è una specie di ammiccamento a una canzone dei Beatles che si intitolava With a Little Help from My Friends, no? Ed era presa, con un piccolo aiuto dei miei amici, sì, ed era presa da un album che si chiamava, l'album, come si chiamava, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, della banda del club dei cuori solitari del sergente Pepper. E allora, poiché quando il sindaco Veltroni mi aveva chiesto di fare il festival di matematica, io mi ero un po' stupito, perché non mi aspettavo questa richiesta, non mi aspettavo nemmeno di dover fare un festival appunto di matematica, che mi sembrava una cosa un po' fuori forse dalle righe. Che ce ne sono vari, no? In Italia, della letteratura, della filosofia, sì, e quindi anche della matematica. Quelli si sa, sai, le letterati siamo tutti, chiunque può raccontare storie, anzi questo è il paese che conta storie, no? Di quelli che li contano ma che poco li leggono, sì. Esatto, no? E invece la matematica mi sembrava una cosa più difficile. Allora dentro di me risuonava questa canzone, no? Dice, ce la farò col piccolo aiuto dei miei amici, che sarebbero stati poi in realtà questi grandi matematici che sono venuti poi nei tre anni al festival, sì. E allora insomma il titolo è appunto un ammiccamento ai Beatles, infatti la copertina, che non possiamo far vedere ovviamente alla radio, no? è un rifacimento della copertina di quell'album. Sì, sì, ti dona questa divisa dei Beatles che portavano in quell'occasione, sì, sì, devo dire. Poi Pier Giorgio Di Freddi è sempre molto informale, molto simpatico, una grande mente, e vedremo un po' dal suo punto di vista che chiave prenderanno i fatti di questa settimana. Sempre vi dicevo, il numero verde per voi 800 24 00 24, e sapete che mia consuetudine, insomma, all'inizio più o meno della trasmissione, cercare di avere un punto di vista anche da altri pianeti. Riflessioni da Marte. In un mondo senza più certezze, come dicevamo, dove appunto non esistono più, così pare, le mezze stagioni, almeno i milanesi potrebbero avere una certezza. Il posto a loro riservato in metro non è stato ancora stabilito come potrebbero essere riconosciuti all'entrata dei vagoni riservati, i milanesi DOC, se ancora ce ne sono, ma potrebbe essere richiesta loro forse la scannerizzazione della pupilla, una pupilla inequivocabilmente milanese ovviamente, o l'intonazione fatta con una certa scioltezza di "O mia bella Madunin, che te vieni de lontan". I britannici decidono invece di integrare a pieno titolo nelle file della polizia inglese gli agenti di religione Sikh, cioè quelli indiani, insomma, per intendersi, e li doteranno presto, notizia di ieri, di un turbante antiproiettile. Se la passa invece male quell'unico solitario, sperduto maiale di cui si abbia notizia in Afghanistan, che mentre a centinaia in quel paese muoiono civili e soldati annientati da talebani dalla guerra, quell'unico maiale esistente nell'intero paese, dicevo, è stato messo in quarantena in seguito all'epidemia di influenza suina nel mondo. Ecco qual era il vero nemico del paese, il maiale. I francesi, al contrario, offrono un posto d'onore alle api. E dove le piazzano, secondo voi? Ma sul Grand Palais di Parigi, prestigioso edificio del primo Novecento, nei pressi dei Champs-Élysées, e sul cui tetto, infatti, è stato installato proprio ieri un alveare composto da 60.000 operaie e da una regina che ovviamente non può mancare, con l'obiettivo di venderne il miele prodotto come simbolo di contributo alla biodiversità. Ora, se la biodiversità del miele consiste nel farlo produrre sul tetto pur prestigioso di una metropoli, questo appare un po' come una stramberia, ma comunque. In ogni caso, su un pianeta assai strambo, appunto, come la Terra, facilmente perdono la trebisonda anche le tarantole giganti. Sapete, quei ragnoni pelosi, grandi come una mano e anche di più, e velenosi. Hanno invaso in questi giorni, forse un tantino disorientate anche dagli squilibri climatici, la tranquilla cittadina di Bowen, in Australia. E si stanno praticamente muovendo a dozzine, abbandonando il loro habitat naturale per colonizzare case e giardini, come nel peggiore degli incubi, dove non c'è insetticida che tenga. Allora, per andare un po' su alcune delle infinite, come sempre, notizie che ogni settimana porta con sé, cercherò di fare questa stringatissima sintesi e poi voi muovetevi sulle notizie che ritenete opportune in libertà. Per esempio, sapete che 6 aprile, quindi 3 giorni fa, era passato un mese dal terremoto in Abruzzo, dalla tragedia che ha colpito l'Abruzzo, il cui bilancio definitivo, lo ricordo ancora una volta, di 298 morti, di cui 20 bambini, 1.500 feriti e 65.000 sfollati, che speriamo abbiano il prima possibile una sistemazione un po' più degna, più decorosa ovviamente che nelle tende. Questo è il primo soccorso e speriamo che però i tempi si accelerino il più possibile, insomma. Poi invece questa bella notizia, oggi sapete che è la giornata della memoria per ricordare le vittime del terrorismo in Italia. C'è stata questa stretta di mano bellissima tra le vedove del ferroviere anarchico Pinelli e il commissario Calabresi, cioè 40 anni dopo la strage di Piazza Fontana, il presidente Napolitano ha avuto questa bella idea di invitare al Quirinale non solo appunto la vedova del commissario Calabresi, ma anche quella di Pinelli, di Giuseppe Pinelli. E Licia Rognini, ecco, vedova di Giuseppe Pinelli, e Gemma Capra, vedova del commissario Calabresi. La prima, Licia Rognini, dicevo appunto, vedova del ferroviere anarchico, che era stata stato ingiustamente sospettato della strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 e che morì dopo un volo dalla finestra della questura di Milano nel 69, dopo 3 giorni di interrogatori e ancora non è stato chiarito con quale dinamica. E poi, dicevo, Gemma Capra, invece vedova del commissario Calabresi, che fu ucciso in un agguato 3 anni dopo, nel 72, dopo questa campagna così denigratoria di stampa che lo rappresentò ingiustamente come responsabile appunto della morte di Pinelli. Poi una notizia che è scoppiata la scorsa settimana, ma che ovviamente ha avuto grossi strascichi anche questa e probabilmente continua ad averne, la vicenda della crisi coniugale tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi, il Papa nel suo viaggio in Terra Santa, la strage di civili in Afghanistan, avete sentito, per un raid aereo americano, e poi questo respingimento dei 3 barconi verso la Libia, dei 227 migranti che stavano venendo verso l'Italia, e sempre questo braccio di ferro tra Malta e l'Italia, te li tieni tu, no, li tengo io, no, pensaci tu, eccetera eccetera, alla fine sono tornati in Libia. E poi le polemiche sulla proposta della Lega di riservare posti in metro per i milanesi. La morte a Roma, forse per suicidio, ma ancora bisogna chiarire, del famoso cardiochirurgo Marcelletti, gli sviluppi della vicenda Fiat, poi il governo che si allarga con 5 viceministri e una nuova ministra, la Brambilla, e rinascerà tra l'altro il Dicastero, scusate, questi problemi di voce oggi, il Dicastero della Salute ricomparirà, e poi la scomparsa a Genova, 84 anni, di Gianni Bacet Bozzo, che è stato un prete, politologo, è stato anche parlamentare europeo, consigliere di Craxi e poi di Berlusconi. Di Davide di Donatello, Gomorra di Matteo Garrone, il divo di Paolo Sorrentino, che hanno vinto ben 7 premi Davide. Allora, Pier Giorgio Di Freddi, hai voglia di commentare qualcuna di queste notizie o ce n'è una che hai per la mente di cui hai voglia di parlare? Ce ne sono tante, possiamo anche partire dagli inizi. Ho visto anch'io che il Presidente della Repubblica ha convocato, diciamo così, o ha ricevuto le due vedove di Pinelli e di Calabresi. Sì. Io confesso che questi atti insomma di buonismo o di concertazione, come si potrebbero dire, di riconciliazione, non li apprezzo molto, anche perché in fondo si tratta di persone molto differenti. Cioè Pinelli in fondo è stato un caso simbolo, no? Sì. Un suicidio simulato, sappiamo tutti, no? Cosa succedeva nelle caserne di polizia di quegli anni. Calabresi era il simbolo, per l'appunto, no? Del commissario di polizia. Io non so, poi non ho seguito, confesso, negli anni come siano poi andate alla fine le inchieste, se lui era effettivamente presente. No, sembra che non fosse presente, che sia stato escluso che fosse presente. Però certamente, insomma, erano due figure molto diverse, e soprattutto santificare i poliziotti, che all'epoca poi erano poliziotti appunto degli anni 60, degli anni 70, non particolarmente democratici, e il sindacato di polizia è venuto molto dopo, grazie a lotte completamente diverse, no? Quindi mi sembra un po' di mescolare le cose, e questi tentativi, mi sembra che il presidente sia caduto un po' nella trappola, che è quella che poi lui invece stigmatizza, no? Quando si tratta invece di parlare ad esempio dei morti della guerra, no? Cioè i partigiani, no? E coloro che combattevano la Repubblica di Salò, certo sono tutti morti, le scoperte, no? Ciascuno ha combattuto per quelli che credeva essere i suoi ideali, no? Però bisogna tenere distinti gli ideali, e anche dire, avere coraggio di dire che alcuni ideali sono giusti e altri sono sbagliati. Ma comunque fosse, anche se Pier Giorgio Di Fredi, appunto, diceva, è stato riconosciuto innocente, cioè assente Calabresi da quella stanza dove volò poi Pinelli, in ogni caso è stato ucciso, no, Pinelli tre anni dopo. Quindi cioè, questo non... in fondo si è parlato appunto di suicidi, eccetera, però quelli erano i momenti... Calabresi è stato ucciso, dicevo, tre anni dopo, quindi... Certo. No, ma questa è un'altra questione, perché un conto è quando un omicidio avviene per la strada ed è fatto da terroristi, no? E allora in quel caso lì ovviamente, no? Certo. Lo si condanna. Un conto invece è quando un omicidio avviene in un commissariato di polizia, che dovrebbe essere il luogo invece in cui la legge viene fatta rispettare. Cioè dai terroristi ci si aspetta, no? Che facciano azioni che sono ovviamente esecrabili e quindi condannabili. Dai poliziotti ci si aspetterebbe il contrario, no? E quindi è molto più grave, secondo me, l'omicidio che avviene all'interno di una caserma di polizia, quando un anarchico viene fermato, viene accusato ingiustamente, perché poi anche questo si è saputo, appunto, di una strage come quella in Piazza Fontana, e invece, no, l'omicidio che viene fatto da un gruppo terroristico, che ovviamente a priori sappiamo che è sbagliato, no? E che dobbiamo condannare. Quindi per questo che dico che ci sono forse c'è un tentativo forse di equiparare alla fine tutte le morti, così come nel caso soprattutto della guerra, che non mi sembra giusto. Cioè io forse sono all'antica, forse essendo un logico credo che ci sia la verità e ci sia la falsità, dunque che ci siano cose giuste, no? E cose sbagliate, e invece il tentativo di mettere tutti sullo stesso piano perché sono morti magari in maniera cruenta non mi convince, insomma. Comunque, e questa è appunto interessante la chiave di lettura di Pier Giorgio Di Fredi. Se volete ritornare su questo argomento, il numero verde è 800 24 00 24. Io però ero rimasta abbastanza commossa, ho visto pochissime scene perché ero presa appunto dalla preparazione della trasmissione di Napolitano, la stretta di mano tra le due donne, e non mi dispiaceva anche questo editoriale che ha scritto oggi Adriano Prosperi sulla Repubblica, intitolato Terrorismo, due donne per una speranza di riconciliazione, che dice insomma la storia è quella che è stata e dice poi la storia del potere e della violenza hanno sempre connotati maschili, la storia del dolore e dell'amore hanno simboli da sempre figure e atti femminili, e dice grazie a loro, queste donne, ripensiamo davvero gli avvenimenti di 40 anni fa con una sensazione che ci sia finalmente qualcosa di nuovo. Poi ognuno ovviamente la vede. Posso soltanto aggiungere appunto una chiosa, è proprio questo che mi dà fastidio, cioè in fondo non si tratta di terrorismo in un caso. Cioè Pinelli non era affatto un terrorista, no? Cioè, quindi non sono le morti dei terroristi, no? È l'esatto contrario, cioè quello era una vittima assolutamente innocente, no? Che non c'entrava assolutamente nulla e che è stato perseguitato, no? È perseguito in realtà perché aveva delle idee che non erano quello che oggi chiameremo politically correct. Cioè era un anarchico, in altre parole non accettava o non si riconosceva, diciamo così, nella struttura dello Stato, che in fondo poi effettivamente, no, l'ha giustiziata in qualche modo, e dunque faceva bene a non riconoscersi. Invece Calabresi, certamente, cioè Calabresi calabrese, era un poliziotto, e certamente è stato ammazzato da dei terroristi, tra l'altro sappiamo anche chi. C'è anche un caso, poi in Italia è difficile anche parlarne, perché poi si sollevano sempre anche lì dei problemi che non sono politically correct. Cioè il fatto che ci sia in galera, no, o perlomeno agli arresti domiciliari, un intellettuale di quell'epoca, che è Adriano Sofri, che ha subito 7 processi per questo fatto, ed è stato accusato e giudicato, tra l'altro considerato colpevole, di essere il mandante di questo assassinio in fondo. Quindi di nuovo ci sono strani pesi e strane misure. Adriano Sofri per esempio è diventato un opinionista, oggi lo sentiamo e sembra quasi un guru, un insegnante di etica, no? Scrive nelle stesse pagine nelle stesse prime pagine di Repubblica, anche che sono state citate poco fa, no? Scrive per esempio sul Foglio, eccetera, no? È un intellettuale interessante, no? Anche lì il caso Sofri è qualche cosa su cui io preferisco non parlare, perché poi conosco poco, no? Fermiamoci qui. Di nuovo insieme, Roberta Giordano con voi, mio ospite oggi è opinionista, diciamo, di questa puntata, Pier Giorgio Di Freddi, che ha appena pubblicato Il Club dei Matematici Solitari del professor Di Freddi. E dicevamo allora, spazio alle ascoltatrici e agli ascoltatori, al numero verde 800 24 0024 sulle notizie sui fatti della settimana. Anita, da Reggio Emilia. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Vorrei parlare del respingimento, come hai detto tu, piuttosto che espulsione, che sì, mi piace meno, dei tre barconi degli emigrati che provenivano dalla Libia. Sì. E prima di esprimere un mio giudizio, mi vorrei rifare all'inizio di immigrazione, quando tutti gli emigrati arrivavano da noi a fiotti proprio, senza che il governo desse un'indicazione precisa e prendesse delle decisioni a riguardo. Tutti noi cittadini ci si chiedeva ma come mai, dato che pur essendo non politici vedevamo che questa cosa sarebbe andata, doveva essere regolata, no? Continuando il flusso, dopo gli emigrati sono stati messi appunto nella situazione di attesa in questi centri di accoglienza che ormai non riuscivano più a contenere il numero, poi non avendo una collocazione precisa in Italia, la possibilità di un'attività lavorativa e anche un posto decente dove abitare, si capisce che molti di loro si sono dati alla, tra virgolette, criminalità. Allora, quando succedeva qualcosa di brutto, questi tali venivano messi in prigione, chi pagava? Noi. Poi venivano rilasciati, perché questa era la prassi. Allora, io mi dico, come mai non avete pensato a regolarizzare prima e a interessarvi di questo problema? Ora ci si dice, ad esempio, da parte di Malta che noi non abbiamo fatto niente, che non facciamo niente, che non abbiamo fatto niente questa volta per Sai, probabilmente, scusa. Però la volta scorsa loro ne hanno lasciati nelle acque, non si sono presi nessuna responsabilità e sempre noi dobbiamo accoglierli. Allora, adesso gli italiani che avevano lasciato quei posti che hanno occupato, posti di lavoro, e che hanno occupato gli immigrati, si dice che ritornino a richiederli. Quindi gli immigrati che cosa faranno in Italia se non hanno un'attività lavorativa? Niente altro. Quindi la mia opinione è questa. Io penso che sia stata una cosa buona fare quello che ha fatto il nostro governo. Perché? Per rendere pubblica e che sia di tutti questa questione, questo problema, di tutta l'Europa, non solo nostra, ma dove li metteremo? Ma che cosa faremo? Potremo fare Anita, scusami, loro? Come tu dicevi, scusa Anita. Allora, dicevi prima, giustamente, probabilmente non si è regolamentato molto fino a qualche tempo fa, per due motivi. Probabilmente, sicuramente come paese abbiamo un po' sottovalutato il problema, che è molto controverso e riguarda un po' in tutto il mondo, anche in particolare l'Europa, i paesi come il nostro che hanno delle frontiere di mare, quindi un po' più difficilmente contenibili e gestibili. E poi dall'altra è vero che è un problema molto controverso, è difficile capire che cosa si deve fare in questi casi. Certamente, come propone qualcuno, sparare addosso non si può nel modo più assoluto. Bisogna cercare di integrare diritti umani, accoglienza, umanità e anche questioni molto, molto pratiche, come vogliamo dire, tra virgolette, di autodifesa. È sicuramente un problema internazionale, forse sottovalutato generalmente, ma anche nello stesso tempo così difficile da risolvere, da gestire, che la soluzione credo ancora non l'abbia trovata nessuno. Comunque questa cosa del respingimento in realtà credo fosse prevista già da un accordo tra Giuliano Amato di qualche anno fa e Gheddafi, quindi la Libia credo che sia previsto dal diritto internazionale. Ovviamente poi si pongono dei problemi appunto anche umanitari, molti di questi probabilmente hanno davvero lo status di profughi e quindi vorrebbero chiedere quello poi di rifugiati politici o di altro tipo. È veramente un problema gigantesco, in qualche modo però bisogna sicuramente regolamentarlo e avere dei paletti. Anita, ci sei sempre? Sì, ecco. Quindi insomma, il problema è questo, è difficile, controverso e comunque molto sentito. Ti ringrazio Anita, io darei la parola a Giovanni da Vimodrone. Giovanni? Sì. Giovanni, buongiorno a te Giovanni. Buongiorno a lei signorina. No, chiamami pure Roberta. Signorina Roberta. E signora mi fanno venire un po' l'orticaria, ecco, se mi chiami Roberta preferisco. Va bene. Posso darti del tuo? Certamente. Ah, benissimo. Allora Giovanni, qual è la tua notizia, la tua riflessione? Io ho sentito in questa settimana una notizia che, siccome che io dico la verità, ho 60 anni, e mi ha un po' sorpreso, in positivo devo dire però, E mi riferivo alla polemica che c'è stato tra Avvenire, sì, e la storia di Berlusconi. Mm. Poi hanno, in una trasmissione che adesso mi sfugge il nome, hanno chiesto un commento a Brunetta, al ministro Brunetta, che in genere sa, i nostri ministri sono un po', quando si tratta di parlare di cose inerenti alla Chiesa Cattolica oppure ai loro rappresentanti, sono sempre come se camminassero sui carboni ardenti. Quindi molto sono prudenti. Molto molto prudenti. Mm. In quel caso però Brunetta non ha avuto peli sulla lingua e ha risposto, diciamo, a mio avviso, non so se è giusto o sbagliato, comunque a mio avviso ha risposto per le rime. Mm. Non so se lei ha presente la risposta di Brunetta che ha dato. Cioè che diceva che in realtà è un fatto pubblico? Che no, Brunetta quando gli ha chiesto, Brunetta senza tanti giri di parole ha detto, ma da quale pulpito viene la critica? A proposito di Avvenire? Sì, esatto, in genere è esatto, si perché? Riferiva ovviamente alla Chiesa Cattolica nel suo genere, che è sempre pronta a criticare tutto e tutti, e non si guarda mai allo specchio e non fa mai un esame di coscienza e diciamo è così libera e pronta a criticare tutti in tutti i campi, però quello che ha fatto lei nel passato e anche nel presente, e nel presente anche non troppo lontano, è così, nessuno osa... Se guai parlare, perché lì è un proprio tabù, è un tabù vero e proprio per noi italiani. Scusa, mi verrebbe una battuta Giovanni, si vede che Brunetta tra la Chiesa e Berlusconi ha preferito difendere il capo Berlusconi, al di là che abbia torto ragione. Senti una cosa Giovanni, però tu sei d'accordo che quando uno, diciamo un personaggio pubblico di così grande importanza, proclama e declama alcuni valori e poi invece diciamo li contraddice, questa incongruenza, questa incoerenza un po' colpisce, no? Perché se un capo di governo o di uno Stato dicesse, ognuno nella vita privata, pur nel rispetto insomma dei propri compagni, della propria compagna eccetera, fa un po' quello che vuole, nel senso che con un minimo di dignità, se una storia d'amore finisce quindi preferisce andare con qualcun altro, innamorarsi di qualcun altro, oppure è libero di amare chi vuole, che sia una donna o un uomo, al di là di tutto, allora uno dice vabbè, sì, capita poi a lui, nulla da dire, effettivamente aveva riconosciuto che questi sono comportamenti leciti e che ognuno deve giudicare in propria coscienza. Se invece ci sono dei leader che difendono a spada tratta la famiglia, fanno anche il family day e poi dopo la gran parte di questi leader hanno magari due famiglie, un pochino così, un pochino di dubbi, di punti interrogativi spuntano. Che dici Giovanni? No, però lei parte un po' col piede sbagliato, secondo me, a mio avviso. Mm. Perché dice, Brunetta ha preferito difendere il capo. Perché? perché dici che ha preferito difendere il capo? Può no, no, ma legittimamente. Un suo pensiero liberamente. No, ma legittimamente sto dicendo, non sto dicendo perché che... Perché si mette sempre che quelli diciamo della destra o del Popolo della Libertà sono tutti al servizio del capo. No, sono più compatti, forse sono più compatti, diciamo, no? Che magari non del centro-sinistra, potrebbe essere anche questo un punto di vista. Ma al di là di questo di Brunetta, sei d'accordo che però se un esponente di grande spicco, no, declama certi valori o certi principi, poi comunque nella propria vita deve farne un modello o no? Secondo te? Certamente sì, ma questo è fuori di dubbio. Però io noto da un po' di tempo questa parte, che l'ho sentito anche diciamo poco tempo fa anche da Fazio, che un cardinale ha detto che loro possono criticare gli altri, ma gli altri non possono criticare loro perché loro hanno il mandato non si sa da chi. Mi sembra che con troppa facilità la Chiesa Cattolica, tra i suoi rappresentanti, e mi riferisco soprattutto diciamo agli altri gradi, non naturalmente a quelle bravissime persone che sono sul territorio a contatto con tutti, che fanno la stramaggioranza, fanno il loro dovere. Mi riferisco appunto a loro che con troppa facilità danno giudizi insomma così un po' a ruota libera qualche volta, e nessuno dei nostri ministri, anche rappresentanti del governo, diciamo, osa parlare, perché anche l'altra sera alla Zanzara sentivo che c'era un'intervista con il direttore di Avvenire. Mamma mia, Crociani sembrava che era proprio, ma in quel momento è venuto in mente lo Zerbino, devo dire la verità. Non so, non l'ho sentita. Tutto ossequioso, poi magari parla qualcuno che secondo lui non è, allora gli togli la parola. Vede, questo randazzo che non mi piace tanto in Italia. Dici, bisognerebbe essere... che non sono un ragazzino, le ripeto. Dici, bisognerebbe essere liberi di pensiero e di critica anche nei confronti della Chiesa. Soprattutto voi giornalisti, perché se voi non siete liberi è finita. Voi dovete avere il coraggio di dire la verità, e non perché c'è qualcuno che più... questo è il vostro lavoro, è il vostro scopo questo. Se non dite voi la verità così, anche qualche volta controcorrente, è finita. Ma Giovanni, ti ringrazio. L'obiettività ovviamente e la libertà sono sempre, come si può dire, dei traguardi, degli obiettivi cui mirare. Poi non è sempre facilissimo, insomma, si sa che la vita è complessa da ogni punto di vista, un po' in tutti i settori. Comunque grazie molto Giovanni della tua telefonata. Rieccoci ancora insieme, Roberta Giordano con voi e sino alle 15 con me Pier Giorgio Di Freddi, oggi logico, matematico, saggista, che ha appena pubblicato il Club dei Matematici Solitari del professor Di Freddi per Mondadori. Stiamo insieme, vi dicevo, fino alle 15. Se avete voglia, domani vi ricordo ancora dalle 19 alle 19.30 invece sarò in compagnia di Mogol, l'autore delle più belle canzoni italiane. Sentivate poco fa questo spot sulla nostra partecipazione di radio. Di Radio 24 alla Fiera del Libro. Ecco, c'è questa iniziativa molto molto carina. Il tema dominante della Fiera del Libro di Torino quest'anno, che si tiene dal 14 al 18 maggio, è Io e gli altri. E noi abbiamo fatto partire invece questa iniziativa che si chiama Io in un libro, cioè voi vi siete identificate qualche volta nel personaggio di un libro. In quale libro vi siete ritrovati di più? Se avete voglia di dirlo, c'è una mail cui mandare il vostro messaggio, la vostra riflessione, che è il cacciatore di libri @radio24.it, oppure se siete dalle parti di Torino potete venire lì direttamente, così ci conosciamo. Pier Giorgio Di Freddi, riflessioni varie, insomma anche piuttosto incisive, degli ascoltatori, le prime che abbiamo sentito, hai qualche considerazione da fare? Sì, direi su tutti e due. Anzitutto la prima signora che elogiava in qualche modo l'azione del governo contro gli immigrati, però ho sentito sia lei che te parlare di regolamentazione e questo in effetti mi fa molta tenerezza, perché sarebbe come pretendere che si regolamentasse la legge di gravità, cioè a qualcuno è cascata in testa... Sì, è un problema difficilissimo, certo. No, è cascata in testa una tegola, no? E uno se la prende con la gravità. Ora, uno dice cosa c'entra in questo caso, quali sono le leggi? Beh, ci sono leggi di azione e di reazione, no? E in questo caso noi dovremmo onestamente anche accettare il fatto che il problema dell'immigrazione è un problema di reazione a ciò che l'Occidente ha fatto nei confronti del resto del mondo. Sì, questa è una vecchia storia di sfruttamento. Molto espressamente, no? Cioè, l'Occidente è il 20% 20% della popolazione mondiale, di cui noi facciamo parte tra l'altro, l'80% delle risorse. Ora, questo è un problema naturalmente solubile soltanto in un modo, e cioè che coloro che consumano l'80% delle risorse, sono però il 20% della popolazione, diminuiscano i loro consumi del 75%, cioè si prendano il loro 20% e lasciano il rimanente a coloro che ne hanno diritto esattamente come noi. Ora, poiché noi non lo facciamo... Non lo faremo, non credo. No, ma soprattutto perché diminuire il nostro consumo del 75% vorrebbe dire, se abbiamo quattro macchine ne teniamo una. Cambiare vita completamente. Quindi come si può fare? No, però allora che cosa succede? Succede che sta succedendo esattamente quello che è successo già altre volte nella storia che noi facciamo finta di non conoscere, o che forse ancora più tragicamente non conosciamo, per esempio le invasioni barbariche. C'è a Torino uno storico bravissimo che si chiama Alessandro Barbero, che ha pure preso il premio Strega molti anni fa per un suo romanzo, e Barbero ha raccontato la storia dei barbari, la storia delle invasioni barbariche. Ora uno legge questi racconti e se sostituisce alla parola barbari la parola immigrati e alla parola impero romano la parola occidente, in particolare i nostri stati, si accorge che siamo esattamente nella stessa situazione. Ora l'impero romano ha cercato in tutti i modi di regolamentare l'immigrazione dei barbari che premevano le frontiere, perché ovviamente cercavano di arrivare dentro l'impero, di usufruire del suo tenore di vita, no? Questo excursus storico, politico, culturale è chiarissimo, approfondisce, fa capire che è inutile fare regolamentazione, bisogna semplicemente accettare il fatto che noi siamo in una situazione analoga a quella dell'impero romano. E quindi romano, che facciamo? Lasciamo che entri così gente in modo così incontrollabile? Ci vorrebbero azioni assolutamente più radicali di quelle che qualunque politico si può sognare, in particolare quello che ho appena detto, cioè diminuire i consumi È un po' utopistico questo. Noi invece che cosa facciamo? Noi per esempio invece cerchiamo di aumentare i consumi, visto che stiamo parlando di notizie di questi giorni, siamo tutti eccitati del fatto che la Fiat abbia fatto questo accordo con la Chrysler americana, che stia facendo un accordo con la Opel tedesca. Sui giornali di oggi si legge il marchionno, dice andremo a vendere le automobili nel Sud America, ma bravi, continuiamo così. Nel mondo ci sono 600-700 milioni di automobili, no? Che naturalmente provocano tra l'altro dal punto di vista ambientale ed ecologico tutti i guai che noi benissimo conosciamo, e noi che cosa facciamo? Crediamo che la soluzione al nostro problema sia costruire altre automobili, andarle a esportare all'estero, eccetera. Dobbiamo capire che il nostro modello di sviluppo non è un modello esportabile, e in un mondo che si pretende che sia globalizzato, no? E questo diventa veramente una contraddizione, perché il modello di sviluppo occidentale funziona fino a quando c'è qualcuno, appunto il 20% della popolazione, che sfrutta l'80% rimanente. Ma se noi cerchiamo di esportare questo modello all'intero globo, poi è chiaro che alla fine l'autodistruzione. Pier Giorgio, aspetta, sentiamo ancora qualche ascoltatore. Per esempio c'è da un po' in attesa, e ringrazio della pazienza, sempre al numero verde 800 24 00 24, oltre a Anna Maria da Trezzo sull'Adda, Maria dalla provincia di Macerata, c'è Maurizio da Alessandra. Maurizio, grazie di aver aspettato con pazienza. Buongiorno a te Maurizio. Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. E io volevo appunto fare una piccola breve riflessione su quello che ha detto Pier Giorgio Di Freddi relativo all'incontro delle due vedove. Sì. Io credo che il Presidente della Repubblica non sia caduto in nessuna trappola, anzi io penso che questo nuovo lavoro di ristrutturazione della storia aggiornata ai nostri tempi sia utile e necessario, perché è giusto insomma riavvicinare un attimino coloro che la pensavano diversamente tanti anni fa, come è anche giusto riuscire a ricordare, non equiparare, ma a ricordare i morti della Seconda Guerra Mondiale, perché come giustamente ha detto, ognuno ha combattuto per posizioni diverse, ma ognuno ha combattuto credendo in un ideale, solo dopo ha scoperto chi era dalla parte giusta e chi era dalla parte sbagliata. Quello però ha detto giustamente anche Berlusconi in questa riconciliazione che ha tentato per il 25 aprile, ha ricordato entrambi i repubblichini di Salò e i partigiani, però ha detto senza equiparazione, perché i partigiani hanno dato la vita per liberare il paese, non dimentichiamo. E quindi questo per agganciarmi alle due vedove. Ora, a parte il fatto di questa profonda conoscenza di ciò che accadeva nelle caserme di polizia e carabinieri del professore, mi lascia intendere che abbia conoscenze superiori a quelle che siano quelle di matematica. È vero che c'erano episodi a volte anche violenti, ma non dobbiamo dimenticarci anche il clima in cui si viveva in quel periodo, cioè quando appunto gli anarchici creavano seri problemi e si pensavano fossero loro alla testa degli attentati. Forse si può capire da quello che dici Maurizio tu, forse delle modalità un po' più pesanti, un po' più dure per il clima che c'era, però era abbastanza chiaro chiaro che sono state sviate le indagini verso questo povero ferroviere anarchico. In realtà, insomma, dietro si parla di servizi segreti deviati, del tentativo di spostare l'attenzione altrove, no? Quindi, insomma, non è che questi avessero avuto la mano pesante su Pinelli perché era un anarchico, no, Maurizio? Ed è proprio per questo che io credo che oggi sia importante non spostare più l'attenzione, ma far incontrare queste due signore che purtroppo da molti anni soffrono la mancanza del marito, vuole far capire, secondo me, a noi che oggi facciamo la storia del nostro paese, che cosa si è provato in tutti questi anni, cosa ha provato l'una nel vedersi poi il marito ucciso per un delitto che probabilmente non ha mai commesso, l'altra... E l'altra invece, sì, uno che non ha commesso il commissario Calabresi sicuramente, l'altro che è stato comunque anche lui escluso dal Pinelli, come attentatore Pinelli. Quindi ecco, riavvicinare le due donne sta proprio come testimonianza per noi, per capire che quali climi oggi non bisogna più far riemergere, quello appunto di andare a sotterrare certe verità. Comunque la cosa buona, Maurizio, diciamo, è che queste due donne, al di là di tutto, delle considerazioni che ognuno può liberamente avere su questo argomento e sulla storia, insomma, che stiamo ricordando, queste due donne hanno deciso di incontrarsi, di darsi la mano, hanno anche parlato alcuni minuti, quindi rispettiamo quella che è stata comunque la loro scelta e i loro gesti in questa situazione. Grazie Maurizio, sempre al numero verde 800 24 00 24, darei la parola a Maria dalla provincia di Macerata, quindi siamo nelle Marche adesso. Maria? Sì, pronto, buon pomeriggio. Ciao Roberta, un bel nome, anche perché è il nome della mia nipotina piccola. Grazie Maria, sono orgogliosa. Io volevo rifarmi a quegli ascoltatori che si era molto indignato, no? Per avvenire e... Sì. I suoi dirigenti, diciamo, i vescovi, i cardinali, no? Sì. Che hanno rimproverato a questi nostri politici. Ti hanno detto ora, di avere più sobrietà. La Chiesa cattolica fa il suo dovere, nel senso che, siccome per la Chiesa non siamo protestanti, no? Perché se no cambia religione, se proprio non gli va bene. Per la religione cattolica il matrimonio è indissolubile. Ora questi politici, che quando gli fa comodo tutti quanti, parlano, si riempiono la bocca la famiglia, no? E quando ce n'hanno due, quelle che si sanno se chi ce n'ha due e chi ce n'ha tre, quindi non dovrebbero riempirsi la bocca della famiglia, non le sembra? Forse vengono criticati. Ma... non ho capito perché questa difesa a spada tratta, per questi, i politici dovrebbero fare politica, lasciar perdere, diciamo, la famiglia, tenerla nel privato, perché è molto deludente. Io, per me come votante, che sento che ci tengo alla famiglia, e sentire questi politici che sono sposati per la seconda o per la terza volta e poi si permettono di avere anche la terza, diciamo, compagna e compagnia bella, oppure si vanno a divertire come hanno fatto alcuni, o no, avendo la famiglia, e vanno con le prostitute. Voglio dire, non è un buon esempio. Ora, che nella vita privata ognuno faccia quello che vuole, mi può star bene, ma però che quando gli fa comodo lo usano nella politica, i cittadini non sono stupidi, io dico solo questo. Quindi non si dovrebbe indignare quel signore, perché chi non gli va bene, mi riferisco ai politici, cambiano religione, no? Se si sentono tanti offesi, non si devono offendere, e neanche i cittadini si dovrebbero offendere. Poi non diamo sempre nel passato quello che ha fatto nel passato tutti i popoli e anche le altre religioni, visto che viviamo nella globalizzazione e qui siamo adesso di tutte le civiltà, tutte le razze e tutto quanto. Parliamo anche come si comportano altre religioni. Altre religioni si comportano che se la donna sbaglia viene lapidata e l'uomo, il massimo, gli potrà 10 anni di carcere oppure niente. Senti, comunque Maria, molto chiarissimo il tuo discorso, ti stavo ascoltando con attenzione. Quello che io vorrei dire, appunto, la congruenza tra quello che si enuncia e poi quello che è proprio il comportamento privato, perché poi diventa pubblico quando sei un personaggio noto. Ma mi piacerebbe lanciare questa domanda. Ecco, se per esempio prendiamo una donna ai vertici di una nazione, ce ne sono molte nel mondo, c'è per esempio la Bachelet in Cile, che leggevo che ha il 65% di consenso dopo non mi ricordo quanti anni che è stata eletta, poi magari vado a controllare, però siamo più vicino, stiamo in Europa, la Merkel, cancelliera, quindi prima ministra, diciamo, tedesca, se lei avesse dei comportamenti come tanti uomini hanno, avesse una seconda famiglia oppure... diciamo avesse una certa simpatia per i giovanotti che la circondano, facesse delle battute spiritose, ecco, come la giudicherebbero? Avesse delle vicende sue sentimentali extraconiugali, come la giudicherebbe la gente? Secondo me una donna sarebbe linciata nel giro non di qualche giorno, di pochi minuti. Ecco, perché anche questa asimmetria? Allora, se ci deve essere par condicio per tutti, ognuno nella propria vita privata, nella propria coscienza, faccia quello che ritiene. Se invece si ritiene che ci debbano essere dei principi o delle regole che qualcuno declama, poi altri sono liberi di non osservare, però quello da cui viene enunciata questa regola deve essere il primo a rispettarla. Maria, ti ringrazio. C'è Valeria Della Valle, che saluto subito. Ciao Valeria. Oh, buongiorno. Linguista della Sapienza di Roma, alla quale adesso voglio fare una domanda, cara Valeria. Roberta Giordano sempre con voi e in mia compagnia telefonica, in questo caso Pier Giorgio Odifreddi, logico, matematico, saggista che ha pubblicato il Club dei Matematici Solitari del professor Odifreddi. Vi ricordo questa iniziativa, un connubio nostro di Radio 24 con la Fiera del Libro, che seguiremo dal 14 maggio al 18 maggio, ci sarò anch'io il sabato 16 maggio lì alla Fiera, e il tema di quest'anno della Fiera del Libro è Io e gli altri. Noi abbiamo promosso questa iniziativa che si intitola Io in un libro. Se c'è un libro in cui vi siete identificati, in cui avete ritrovato un po' la vostra anima, il vostro modo di sentire o la vostra storia, mandate, se avete voglia, una mail a il cacciatore di libri, tutto attaccato, è il cacciatore di libri @radio24.it. Valeria Della Valle, allora, stavamo dicendo, tra le varie notizie di questa settimana, si è allargato un po' il governo, ci sono 5 viceministri nuovi, c'è la ministra del turismo Brambilla, e rinasce il Ministero della Salute, quindi si scorpora da quello del cosiddetto welfare. Questo welfare, a parte che la nostra mania, l'abbiamo detto tante volte Valeria, di questi anglicismi, non si può dire in un altro modo, non è lo stato sociale, che cos'è sto, perché welfare, dobbiamo dire welfare per forza, Valeria? Intanto questo, il welfare state, welfare è l'abbreviazione, e può essere tradotto in due modi, o stato assistenziale, allora certamente ha una sfumatura un po' negativa, oppure forse in modo più neutro, stato sociale. È vero che normalmente nei giornali si trovava sempre welfare in sostituzione del ministero, no? Del ministero, si diceva ministero del welfare o addirittura per ellissi welfare, però è anche vero che questo è un po' un uso giornalistico, forse fatto per brevità o forse per quell'ammiccamento alla lingua inglese che un po' ci caratterizza tutti, perché se andiamo a guardare davvero come stanno le cose, quello che normalmente viene chiamato Ministero del Welfare, si chiama Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ho fatto il controllo più di una volta, perché proprio nel sito apposito questo è il suo nome ufficiale. Poi per un po' per un vezzo giornalistico, io di solito, come sai, difendo la lingua usata dai giornalisti, perché fanno un grande lavoro di mediazione linguistica. Grazie, però, hai scritto anche dei libri, no? Sui nostri neologismi. Ecco. Infatti, però ci sono altri casi, e qui non sono colpevoli i giornalisti, tutt'altro, nei quali proprio l'organizzazione sociale si serve di termini inutilmente stranieri. Non me la prendo, perché questo è anche un'abitudine, no? Si dice sempre tutte le colpe della lingua inglese, che secondo molti inquinano la lingua italiana. Quello è un discorso troppo lungo, mi limito a un esempio di cui ho esperienza proprio in questi giorni, in cui frequento gli ospedali. All'ingresso degli ospedali italiani c'è la parola triage. Triage? Ora, triage, tra l'altro parola francese in questo caso, che significa smistamento, però non c'è la traduzione, no? È lo smistamento dei malati o di chi ha subito un infortunio, che a seconda della gravità viene appunto smistato. Tipo in pronto una parte soccorso, livello, ecco, verde, livello giallo. Sì, mi sembra uno di quei casi, ora non qui sarebbe molto discorso, molto lungo il discorso, insomma uno di quei casi davvero di parola inutilmente presa da un'altra esotica lingua, e che tra l'altro va a colpire il povero malcapitato, che quando entra in un ospedale è già abbastanza sotto sopra, perché deve anche capire che cosa diavolo vuol dire questa lingua. E poi per alleggerire ora il discorso, vorrei concludere con un altro caso. Ci sarebbe da parlare anche di question time, di ticket, Premier, questo, eccetera eccetera, sì. Certo, ma questo ci porta troppo lontano. No, vorrei, per riportarmi anche ai discorsi che facevate prima sulla famiglia, sulla sacralità della famiglia, tante volte invocata, ecco, chiudo su un esempio che mi sembra veramente grottesco. Family Day, ma insomma, chiamare così quella iniziativa o quella giornata mi sembra un po' uno scimmiottamento, non si sa bene di che cosa. All'americana. A cominciare dalla lingua, ecco, non entro nel merito della questione, ma insomma, linguisticamente mi sembrava proprio un inutile riferimento a qualcosa che poi non si sa bene che cos'è. E che comunque possiamo dire benissimo in italiano. Grazie Valeria Della Valle. Grazie a voi tutti, arrivederci. Ciao, buon sabato e buona domenica. C'è Anna Maria da Trezzo sull'Adda. Anna Maria. Buongiorno Roberta. Buongiorno a te. Senti, innanzitutto non so, non sono i soliti complimenti, io l'ammiro molto. Prima lasciamo perdere la sua voce gradevolissima. Grazie. Ma anche perché ha grandissimo rispetto nei nostri confronti. Cruciani dovrebbe imparare da lei. Io sono una grande frequentatrice di Radio 24. Diciamo che ognuno e un devo po' dire il suo che stile. Con Cruciani mi posso dire m'incavolo, ecco, per usare un termine meno volgare. La ringrazio proprio perché... No, ma dammi del tutti, prego, Anna Maria, arrivo se ti va. Posso dire, dico una cosa, che Odi Freddi mi sembra molto più cristiano e cattolico di tutti i nostri cristiani e cattolici che ci circondano. Sebbene mi sia un ateo conclamato, ecco, diciamo. Il mio appello è una cosa brevissima. La Merkel e tutte queste bravissime donne di cui ho una grandissima stima, che non è certamente l'estetica, ci siamo intesi che cosa voglio dire. Sa che cosa verrebbero tacciate? Di che cosa? Per i patetiche, ha capito? Per non dire tutta una serie di termini, sì, lo so, è questo, senz'altro. Mi rivolgo a questa signora che a me ha fatto un grande effetto, mi ha fatto un grande effetto e una grande pena. La signora che, non so, è intervenuta dicendo, ma insomma, ma tutta questa gente che viene qui, meno male, li rimanda. Anita, sì, da Reggio Emilia. Le dico semplicemente questo, domani è la festa della mamma. Io vorrei che questa signora, che non mi sembra giovanissima, guardasse negli occhi suo nipote, sua figlia, eccetera, perché io ho sentito l'intervista di questo marinaio che ha detto non avrò mai più il coraggio, e forse proprio trasmessa da Radio 24, non lo so, non avrò mai più il coraggio di guardare negli occhi mio figlio o i miei figli, perché ci hanno obbligato a portare questa gente, donne, bambini, eccetera, che speravano tanto, che ci hanno accolto con grande gioia e non capivano perché ci avvicinavamo a queste luci. Io non ho più il coraggio, ci pensi questa signora e la smettano questi cattolici e questi cristiani. Ma cattolici e cristiani dove? I cristiani padani si devono solo vergognare, perché noi poi ci mettiamo a posto la nostra coscienza. Io signora le dico che non dormo, che io dico, ma cosa sarà di queste 300 persone? La Libia non se ne occupa. Magari era gente che chiedeva veramente asilo politico. Dobbiamo solo vergognarci. Guardi, io glielo posso dire, Roberta. Sì, sono una persona impegnata che mi occupo di animali, di natura, eccetera. Una grande. E io sono veramente travolta dall'indignazione, dal dolore, glielo dico, quando noi utilizziamo uomini come merce, peggio ancora, peggio che gli animali caricati su un camion. Si vergogni il ministro Maroni, mi scusi, io sono arrabbiatissima. No, lo e sento. Sono arrabbiata con tutta questa gente, la smettono i cattolici, sono i peggiori, mi scusi, ci saranno delle eccezioni, la devo no, dire. No, ci sono moltissime perché eccezioni. Perché sono cattolici e non hanno la minima comprensione perché hanno il colore della pelle diverso, perché sono tutti gli immigrati, sono tutti. Beh, comunque la Chiesa, Anna Maria, e questa signora domani ci pensi un attimino e accolga il mio invito a guardare negli occhi. Anna Maria, sei stata chiarissima e piena di pathos. Colpa. Più incisiva di così non potevi essere, Anna Maria, ma perdonami, devo dare spazio anche agli altri ascoltatori. La Chiesa comunque insomma ha reagito malissimo a questo respingimento. Io avrei avuto sicuramente un occhio di riguardo almeno per le donne che sono quelle, i bambini ovviamente, ma anche le donne che sono quelle che se la passano peggio nel loro paese, quando vengono qui, nei trasporti, nel traghettamento, volevo dire, di violenze, di stupri, di cose, di mortificazioni, insomma, se le subiscono gli uomini e se le subiscono le donne italiane in un paese, diciamo così, civile, figuratevi queste donne buttate da un posto all'altro. Anche se il problema ovviamente rimane molto, molto difficile, molto controverso e difficilmente risolvibile. Prima di sentire ancora Pier Giorgio Di Freddi e Roberto da Verona, c'è il nostro colonnello Mario Giuliacci, al quale chiedo anche lui uno sforzo di sintesi. Ciao colonnello, anche perché ciao, Roberta, un saluto a tutti. Anche se, perché so che sei un colonnello un po' dimezzato oggi, quindi non ti voglio spremere, sì, più di tanto. Sono appiedato. Sì. Con un piede sospeso, mi pare di aver capito. Sì, orizzontale. Sì, ho subito l'intervento, per cui ma tanti piedi non servono a fare previsioni, in genere non facciamo i piedi. Tu non le fai con i piedi. Non no? Le fai con i piedi, infatti stavo dicendo. Senti, allora, prima delle previsioni che non hai avuto modo di controllare, visto che sei lì appeso al soffitto, ma ti volevo chiedere, c'è questa ricerca del CNR, di questi giorni, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che testimonia che da novembre ad aprile, da novembre 2008 ad aprile di quest'anno, in Italia c'è stata una pioggia record come non c'era da 200 anni e noi proprio non ce ne siamo accorti minimamente. Sì, accorti magari abbiamo avuto la sensazione che pioveva troppo da 5-6 mesi a questa parte, ma voglio dire questa attenzione perché negli ultimi 10 anni abbiamo, questo forse è sfuggito ai più, no? E abbiamo avuto negli ultimi 10 anni il numero maggiore di eventi eccezionali, cioè accanto a questa notizia che abbiamo avuto i 6 mesi più piovosi degli ultimi 200 anni, bene, negli anni 2000, negli ultimi 10 anni noi abbiamo avuto il numero maggiore di gravi eventi siccitosi, cioè porto il contrario, capito? Accanto all'estate più calda del stanno secolo, stanno estremizzando le cose, non ci sono più le mezze stagioni, io dico sempre l'estate più calda, sta il 2003, abbiamo avuto l'estate del 2002 che è stata una delle più fredde degli ultimi 50 anni, accanto all'inverno 2006-2007 che è stato direi quello con minor innevamento su tutto l'arco alpino, abbiamo un 2008-2009 che ha fatto mai visto negli ultimi 50-70 anni un arco alpino così innevato. Senti, colonnello Giuliacci, ma dimmi solo questa cosa proprio in diciamo 30 secondi, ma tutto questo è dovuto ai cambiamenti climatici o no? Certo, però attenzione, questo volevo dire, se tutto fosse dovuto all'effetto serra, quando ci dicevano che la causa della mancanza della neve sulle Alpi sul riscaldamento è il globo uomo causato dall'uomo, adesso che piove di più e c'è più neve, evidentemente la causa non sarà la stessa. Il messaggio che voglio mandare è questo, attenzione, negli ultimi 10 anni è rallentato il global warming, il suo riscaldamento del pianeta. Da che cosa è stato provocato? Probabilmente da cause naturali che in questo momento stanno agendo in senso favorevole, no? Cioè nel senso di raffreddare il pianeta, e una di queste, guarda caso, è il sole che negli ultimi 10 anni ha appunto rallentato di molto la sua attività. Quindi noi inquiniamo, ma la Terra in qualche modo ha le sue risorse. Ci danno a mano, diciamo, per fortuna. Però non troviamola come giustificazione. Grazie colonnello Mario Giuliacci. E un saluto a tutti ascoltatori, buongiorno. Salutaci il tuo piede, caro colonnello, un abbraccio al tuo piede. Pier Giorgio Di Freddi, abbiamo credo 47 secondi per chiudere. Pier Giorgio, se vuoi fare una chiosa. Volevo fare un piccolo commento su una delle cose su cui abbiamo parlato, non mi sembra che si sia capiti i termini del problema. Il primo ascoltatore, che mi sembra si chiamasse Giovanni, aveva detto di questa reazione di Brunetta, ma non si è capito qual era quella di Brunetta, ed era semplicemente il fatto che lui ha detto che nel caso della pedofilia dei preti, che tra l'altro è un problema endemico non soltanto italiano, ma negli Stati Uniti, irlandese, eccetera, sono stati coinvolti in particolare alti gradi, alte gerarchie, addirittura dei cardinali, forse persino il Papa, e la Chiesa naturalmente, in particolare l'Avvenire, hanno trattato queste cose in una maniera molto differente. Ah, per quello dice Brunetta, il problema diceva non da è soltanto dei politici che non seguono, i loro insegnamenti, ma anche quello degli alti gradi della Chiesa, no? Che poi fanno esattamente uguale, quindi da questo punto di vista sono uguali, no? I cardinali e i ministri, no? In questo senso diciamo Brunetta. Dobbiamo salutarci. Pier Giorgio Di Freddi, ti ringrazio di essere stato con me, con noi. Ringrazio Gigi Borghi, che con Octopus, con tutti i suoi tentacoli, ha prodotto le vostre telefonate, e poi Giacomo Spunta alla messa in onda. Roberta Giordano vi saluta, vi augura un solare fine settimana, vi ricordo domani alle 19 con Mogol.